le bronzine di Manco sono partite. Avanti Giulio. Io addirittura mi ero permesso di mettermi a fare il meccanico quando avevo il 1100D. Avevo rifatto il motore da zero, tutto da zero, smontato tutto completamente, bullone per bullone, e gli avevo sostituito i pistoni a tassello, li avevo messo. Sono andato a Ciano Meloni, lì a Serra Secca, mi avevo fatto fare la rettifica al cilindro, poi mi avevo fatto la rettifica alla testata, e sono riuscito a farmi il passo al motore, proprio da zero, ma ero giovane, guarda, avevo una trentina d'anni, nemmeno. Pensa che ne ho tolto il motore, o Bruno, da dentro il 1200, da solo, senza l'aiuto di nessuno, con gli attrezzi che avevo di falegnameria, cioè con le chiavi di falegnameria, e con il libretto di istruzione che mi aveva dato la Fiat allora. Sì, che ti puoi immaginare, eppure l'ho rimontato, l'ho fatto a pezzi, l'ho rimontato, e dopo anni e anni l'ho portato da coso, quello che c'era in Piazza Dreta, che non mi ricordo più come si chiama, come si chiamava di nome, il ferrovicchio che c'era in Piazza Dreta, te lo ricordi, Bruno? Albano si chiamava. Bravo, la Natalina Albano, sì, che poi tra l'altro era anche un cliente mio, era Renzo, il genero di Albano, perché Albano era continentale, Renzo invece era uno che vendeva al mercato frutta e verdura, una cosa del genere, ha conosciuto la figlia di Albano, si sono sposati, e allora lui ha fatto parte poi dell'azienda di rottamazione che c'era lì di Albano, ha lasciato perdere il banco del mercato ed è passato a dirigere, a comandare lì nel ferrovicchio. Sì, Renzo, me lo ricordo bene, una grande persona, una persona in gamba, seria, eccetera, eccetera. Vai, Franco. No, questo Albano non lo ricordo. A che altezza era, Giulio, questo ferrovicchio? Dove c'è adesso il supermercato lì in via Gazzaretta, all'altezza di via Fumenaggia, di fronte, dietro quel palazzo lì, dove c'è il supermercato, chi è quello? Con quel supermercato lì? Una cosa del genere, non me lo ricordo come si chiama quel supermercato. In fondo c'era Albano. No, c'era una portante forse. No, forse stava bruciando la panina sotto. Comunque, non era in fondo via Grazia Doretta Albano. Era all'inizio, giusto, mi ha detto c'è la fama, il supermercato di Mura, cosa cavolo è. Correndo a destra c'era un viottolino, si scendeva lì e c'era il servizio. Ah, ho capito, all'inizio io pensavo il supermercato che c'è adesso su alla fine. Ah, quindi era abbastanza vicino qua, dai. Avanti Giulio. Era via Grazia Doretta, no? Ho detto dietro il supermercato che c'era via Grazia Doretta. Di Pam si chiama. E poi tra l'altro ci lavora anche mio nipote. Non mi ricordavo come si chiamava quel supermercato. E delle volte ci sono andato anche a fare la spesa. Sì, era lì, era dietro. Cioè, prima che costruisce quel palazzo c'era Marceto lì dietro. E c'era il ferrovicchio. La demolizione. Va bene, ma è nata lì. E via Sebastiano Crispazzo si chiama quella via. In fondo c'era Albano. Esatto, in fondo c'era Albano e all'angolo c'era Montini, te lo ricordi Montini, nata lì. Eia. Ha giocato mai, ha beviato la Montini. Ehi, non la usa. Un sacco di volte ero blu. Poi c'era anche il campo delle bucce, c'è stato lì, vabbè dai. Altri tempi, vai Franco. No, proprio no. Sicuramente io non ci bazzicavo ancora, vedete, da queste parti a Sassari, era ancora un pischillino, quindi non ricordo questa fascia carrozze, non lo so. Avanti Giulio. Prima, se non sbaglio, quel negozio era di Multinet, Multimarket, cosa c'era lì? Giulio, avanti. Multinet di Vittorio era. Sì, di Multinido, era proprio di Multinido, è vero. Poi Multinido l'ha venduto, cosa ha fatto, non lo so, e se l'ha preso, adesso c'era questo pam, c'era, per cui, ripeto, era lì. No, e beh, metà che tu, guarda, ancora non eri nato nemmeno. Quella è, sta parlando di quasi 60 anni fa, no? E dunque, è per quello che non puoi conoscere, non è nato. Vai, Fra. Beh, sicuramente l'ho nato, ma neanche per sentito dire, eh. Avanti, Giulio. Anzi, ti dirò di più, dove c'è il negozio adesso, il negozio del supermercato, lì c'era un deposito di bombole che una volta, e poi a fianco al deposito di bombole c'era un negozio di frutta e verdura fino a poco tempo fa, adesso mi sembra che non c'è più. E un giorno in via Grazia Deledda è sceso un camion, è salito sul marciapiede e ha sfondato il muro della frutta e verdura, te la ricordi blu? Quello lì era Bassoni, era la frutta e verdura di Bassoni, l'hanno conosciuto, è morto pochi anni fa, 7-8 anni fa, e a fianco ancora c'era il giottolino dove entravi dentro e c'era il panificio di Stilo e poi c'era anche sì, la falegnameria di uno che tu hai conosciuto bene, che è morto per anni fa, come si chiamava, mannaggia, giù, che era dal baracchino, anzi, già stava in frequenza, capitava la feroce. Bravo, questo è, che te lo ricordi anche tu, è vero, poi nella testa lì c'era la cosa, è vero, e nell'angolo a fianco alla cosa, non so se tu lo ricordi, Bruce, sicuramente sì, alla frutta e verdura, sotto la frutta e verdura, entrando nell'ingresso dell'angolo lì, da quel vietolino, c'era una casa, c'era la sede della squadra di calcio, dove io ho militato anche, ho giocato con loro, mi ricordo, Puddinu era il presidente e io giocavo al calcio lì allora, tantissime anni fa, ero ragazzo, cosa avrò avuto 17 anni, poi però la casa c'è sempre, voglio dire, lì la casa c'è sempre, e sotto la frutta e verdura c'era questa cantina abbastanza grande, tutta ben fatta, ben finita, tutta ben allestita, e lì si facevano tutte le riunioni della società in cui io giocavo. Avanti ancora, Bruno. Sì, ma io mi ricordo bene. Ma no, perché ricordami come si chiamava? Quando andiamo alla falegnameria, entrando a destra, no, quando trovi il viottolo, in fronte c'era la scalinata, saliva e c'era il dottor Paolo. A destra c'era il falegname, che poi se n'era andato vicino a via Pasquale Paoli. Gravino, tu stai dicendo Gravino, però non era lui, era dipendente allora lì, il vero padrone era un uomo anziano che ci ha lavorato, anche Nino Fara ci ha lavorato lì. Sì, Gravino è morto pochi anni fa, vabbè, a questo è la chiacchierata, saluto, grazie alla chiacchierata e continuiamo la sera. Ero andato per cercare a Franco California, ma di questa frequenza non si fa più niente. Ok, ciao Bruno, grazie a te per la chiacchierata, ci sentiamo. Avanti Franco. Sì, ciao Bruno, mi hai sentito? Buon fine serata, buona carica e buon tutto, dalle prossime, grazie per la compagnia. C'è stata anche una bussata, vediamo un po' se qualcuno vuole fare. Negativo, era una bella portante. Avanti giù, anche io tra un po' iniziamo già a prepararci per la cena, anzi per preparare la cena. Beh sì, sono già le 8:20, per cui siamo vicini all'ora della cena. Avanti Natali. Sì, ciao Bruno, fatti sentire più spesso però. Ok, riprendi Franco. Via della Cuccia. Lui, ti ricordi quando abitava lì, nel Palazzo Rosa, lì, nella salita, quando abitava lì Bruno, all'ultimo piano, aveva l'antenna, da lì che usciva forte, cazzo. E poi di fronte, di fianco, ti ricordi che c'era Costanzo e Antonello, Costanzo Ora Zero e Antonello Norton, nata lì. Io lo so dove, che ci sono le poste vicino, dove abitava Bruno, e l'ho conosciuto quando abitava lì proprio tantissimi anni fa, Bruno. Oh Giulio, e dimmi Bruno, adesso però lo faccio, abita le poste a me, sono stato da te, infatti sto guardando abitare il dell'antico qua, nel furgone da via Tassotto, abita via Tirandello, lo abito io, dentro, di fronte a casa mia, ci siamo trovati per caso ad abitare di fronte. Allora, ciao Natalia, anche a te, ci sentiamo. Ciao Bruno, fatti intindì però, più spesso. La mia vinta ragana di intinditi. È il problema che ci ho pensato 3-4 volte di Sarchetta, non fai mai nessuno. Ecco stasera l'ho sentito a Franco, California, mi ha detto entra e facciamo anche la chiacchieratina. E sono con 3 ore non si parte il TV. Vabbè, io sono arrivato in garage, ci sentiamo, no? Ciao. Ciao, ciao Bruce. Ci siamo tutte le sere, dai, è un po' tardi, ma ci siamo tutte le sere, o sapete di sede. Bruce, dai. Sì, beh certo, in effetti è così, adesso ci sono le poste lì, hai ragione Natalia, ci sono le poste, ma altri tipi, va bene, va bene. Aldo, ci sei ancora Bruno? Aldo è più grande di te, se ricordo bene, vero Bruno? Non ho sentito giusto, non facciamo giro la macchina, non è Aldo. Ecco, se ricordo bene, Aldo è più grande di te, di età, così è. Sì, due anni più avanti c'è l'Arrino, mio fratello che è morto 4 anni fa, poi c'è Aldo che ha 70 anni, ha compiuto Aldo, 71 anni fa. Sì, lui abita tutto in zona. Già lo so dove abita, dove abita Gianni, di Vimpeto a Gianni abita, nello stesso pianerotto, già lo so dove abita. Vabbè, dai, Bruno, ti lascio andare, dai, visto che sei arrivato in garage. Ciao, ciao, Bruno, alle prossime. Vai, Franco. Sì, dai, rinnovo i saluti a Bruno, alle prossime. Avanti, Natalino. E dai, riprendo per salutarvi, che me ne faccio in QRT io, dai. Riprendete voi, io purtroppo mi hanno chiamato, dai, ci sentiamo alle prossime. Sì, sì, no, anche io mi adesso saluto anch'io a Giulio, tanto ti saluto a te Natalino, saluto a te e al QRA, avanti Giulio per i saluti. Ok, ciao Natalino, salutoni anche a te, dai, ci sentiamo, saluti in casa. Bene, bene, sì, no, ho fatto anche il nome di Aldo, sai perché lo fa? Perché anche lui modulava, è il fratello di Bruno. Per non ricordare anche Coso, anche il cognato è buonanima, Tore buonanima, che Tore Ala Verde si chiamava, forse quello l'hai sentito però, o fa. Sì, adesso non so se l'ho sentito da te, questo Ala Verde mi risuona in testa, però magari me l'hai già raccontato tu, questo Ala Verde, l'ho già sentito. Ok, è un grande della frequenza, era veramente in gamba. Veniva sempre da me a fare gnameria, purtroppo è scomparso, vabbè, un po' di anni fa. Vabbè, che poi era radioamatore anche, oltretutto, era proprio radioamatore patentato, per cui no. Eravamo molto amici, tante volte veniva e mi raccontava delle storie. Abbiamo fatto certe chiacchierate, certe risate con Tore che non finivano mai. Oh, vabbè, dai. Riprende, fra. Riprendo, ma malincuore devo chiudere. Iniziamo a preparare qualcosa. Beh, una bella chiacchierata ce l'abbiamo fatta. Anche a Bruno non l'abbiamo lasciato da solo, quindi anche se non ha trovato a Franco, ha trovato un altro Franco, e Giulio, e Natalino, anche dai. Un abbraccio, stammi bene, buona carica, buon tutto, e alle prossime, quando coinciderà, dai, ok? Io non è che siamo molto assiduo, purtroppo, quando ho un po' di tempo accendo. Un abbraccio ancora, avanti Giulio. Ok, Fran, grazie a te per la chiacchierata, dai, un abbraccio anche da parte mia, ci sentiamo nel prossimo, dai, è sempre un piacere chiacchierare con te, ciao Fra, buona cena e buonanotte, ciao. È un piacere anche da parte mia, buonanotte. Quindi non ho, poi c'è anche una potenza oramai 50 watt ci hanno gli apparati. Se riesci a sbaraccarlo e te ne prendi uno normale, moderno, poco costoso, ecco, senza impegni. Piuttosto, ma l'antenna l'avevi ordinata? Sì, sì, è già stato spedito il pacco oggi, mi ha mandato la fotografia, la Maccar, non so se lo conosci, di telecomunicazioni di Roma, ci sono da 50 anni che vendono apparecchiature. Sì, li conosco anche se sono pochi e se servono lì, ma il prezzo almeno è buono, sì. Il prezzo è stato di gran lunga più basso di chiunque, è molto gentile, vabbè, io conosco il titolare che abbiamo preso, io ti posso dire, ha memorizzato il mio numero di cellulare, è stato molto cortese, perché appena ho chiamato mi ha telefonato, cioè mi ha risposto subito, poi abbiamo WhatsApp, tramite WhatsApp ci mandiamo le informazioni, mi ha mandato il pacco, la foto del pacco di spedizione, veramente una persona molto gentile, me lo tengo conto, non si sa mai, perché c'è un sacco di roba. No, stavo dicendo, le V e le U le utilizzo, almeno l'idea mia, sul TS2000, con i tuni e tutto, le ho già impostato di lì, questo me lo tengo, visto che c'ha già la 220, non devi alimentare a niente, quando vuoi fare un collegamento in diretta sulle VHF c'ho quello, poi c'ho anche un veicolare piccolino, nuovo, una Linco con i tuni, ma sinceramente a me i veicolari non piacciono. Vabbè, è una questione di gusti, io ne faccio una questione invece di prestazioni, che è diverso. Anche di sera, ad esempio, non è bello, è un apparecchio che non c'ha cose particolari, sì, c'ha un display anche grandicello in confronto a certi, però è un apparato così, monobanda, anonimo, però poi al confronto con gli altri ne sconfitti di successo, quindi rinunci un po' alla bellezza a favore della funzionalità. E niente, ripeto, uno senza tuni, un apparecchio senza valore in pratica, ecco. Sì, sì, no, ma ripeto, lo uso soltanto in diretta, come abbiamo fatto, se hai ascoltato a un certo punto, ci siamo andati a 4,50 e stavo parlando in diretta, direttamente, senza niente, l'ho imposto lì e utilizzo con l'antennina, la piccola, la 300, che già col cavo su è pronta, tanto toglierla, non mi costa niente, cioè toglierla mi dà solo fastidio, la lascio di lì e ce l'attacco direttamente qua, diretto senza togliere, tanto l'antenna non è in più, non è che li fa male. E poi sto pensando di mettere anche in piedi quel, come si chiama, quello che mi hai dato tramite te Claudio, come si chiama, il Barrett, quello va bene per le HF, l'hai utilizzato tu? Ma no, l'ho utilizzato per qualche test, ma anche quello è un apparecchio ottimo, eccellente, però attenzione, è fatto per operare con quegli apparati della sua razza, cioè banda stretta, voce microfonica, un po' telefonica, eccetera, capito? Cioè quelle caratteristiche lì per essere affidabile, per essere... fa parte di un'altra famiglia, ecco, non le puoi chiedere di fare altre cose. Sì, sicuramente è nato per altri scopi, però dito che ce l'ho lo metto come muletto, come seconda radio. Sì, per fare anche questo. E poi ci butti giù, te l'ho detto, un dipolino, qualcosa del genere, ce n'è tanto. Non devi correre. Sì, come abbiamo detto l'altro giorno, i passi si fanno giusti, senza allungarli troppo sono inciampi, come mi avete consigliato voi, è inutile fare le cose mega galattiche e poi vai a finire male. Si fa piano piano, metto quel dipolo famoso, questa 7000 per la, come si chiama, per le VLU, e vediamo un pochettino come va a finire la situazione. Però un'altra cosa, ho ordinato ieri anche il computer, quello Fujitsu ho preso, che c'ha la SSD, e c'ha 8 giga di RAM e 240 l'hard disk, anche se poi guardando su dei siti particolari ho visto delle bestie di computer che più o meno costavano quanto quelli, anche addirittura con 16 GB di RAM. Ma bisogna stare attenti, perché non tutti i fiori sbocciano poi. ti dice alla garanzia, se va male prendilo, restituisci. Altri siti ti dicono adesso te lo sei preso, arrivederci, grazie, e magari sono anche fuori, quindi non ti puoi neanche attaccare. C'è tanta gente che infatti a causa proprio di certe ditte non compra niente online e quindi si trova in difficoltà. Sì, naturalmente ci vuole anche fortuna, all'inizio dell'esperienza te la fai. Questo qua sei su cosa? Su subito, non subito, su Amazon, male che vada, c'è un anno di tempo, lo restituisci, ti risponde Amazon. Queste erano ditte grosse, ne avevano 40 di questi qua, 43 ne aveva disponibili, fatti il conto. Ma su Amazon? Sono entrato su motore di ricerca, no Amazon, direttamente sulla ditta, ci sono delle ditte grosse che ritirano questi computer, ci sono i gradi di stato d'uso, c'è A, B e C, ho letto un po' come cosa vuol dire A, B e C, cosa, quando fanno le prove l'apparecchio è perfettamente funzionato, quasi come nuovo, poi il B e c'è qualche segnettino che non tocca sul funzionamento, e poi il C che è qualche grafico più importante, qualcosa che non è testato perfettamente. Sì, vabbè, quello sì, no, quelle righe ci sono su Amazon, soprattutto quelle che sono marcate Prime, quindi tutti, quelle lì sono molto affidabili, per il semplice motivo che innanzitutto sono la garanzia, poi dietro comunque c'è Amazon, io sono iscritto da tanti anni, qualunque problema addirittura mi chiamano loro, ho capito, mi chiamano loro per dire è andato tutto bene, deve fare il reso, cosa è successo, come mai, il perché, sì, ha detto se c'ha dei problemi non si preoccupi, la rimossiamo noi direttamente. Quindi è capitato, perché capita anche con roba nuova, con delle forti produzioni che purtroppo su un milione magari di pezzi ce ne sono sempre 10-15 che sono difettosi, oppure anche che non ti vanno bene al tuo scopo. Lo segnali, lo restituisci, boh, basta. Sì, assolutamente Amazon da quel punto di vista è all'avanguardia. E poi un'altra decisione che ho preso, questo computer qua, naturalmente sul suggerimento di un'amica, ha detto no, tienitelo lo stesso e te lo usi come archivio, nel senso book di stazione, te lo usi solo per quello, questo computer, questo vecchio, visto che per altre cose non serve. Vabbè, per quello spendi qualche decina di euro, anche qualcosa di più, forse ti fai un archivio diretto USB come ce li ho io, anche piccolissimo, tanto ci sono hard disk di quelli da 2,5 che non ti occupano neanche spazio, sono proprio meno di un pacchetto di sigarette, l'attacca USB, ci metti tutto quello che ti interessa e ce l'hai lì a disposizione al sicuro. A posto da avere un mezzo armadio come quello, in mezzo ai piedi, tutto lì, è una questione di modernità, hai capito? Sì, no, ma già ne ho spazio, tra l'altro non è che mi dà fastidio perché nella parte inferiore del ripiano all'altezza quasi di piedi, è un po' più alto dall'altezza dei piedi, dai. E di lì ci metto un monitor dedicato solo per quello, tanto ne ho un paio di monitor, e adesso per il momento sto utilizzando quello della Nacer, con il meccanismo di abbassamento, l'altro è ancora fisso, il Philips, quello che era del computer di questo Lenovo che ho fatto io, e questo lo dedico soltanto al coso, cioè due impianti completamente separati, quello grosso che ho preso farò tutte quelle operazioni che mi hai fatto vedere tu e lo dedico solo a quello, e poi come archivio che lo tengo acceso per i collegamenti utilizzerò l'altro. Sì, se c'è spazio soprattutto se te va bene, io sono per la compattezza, forte ridondanza, quindi una cosa doppia, è tutto doppio quasi, anche le antenne sono doppie, se no non fanno le antenne, sono triple, però è tutto ridondato, anche l'alimentazione, infatti a me non piacciono quegli apparecchi a differenza a te piacciono, quelli che hanno un alimentatore sul contenuto, perché in caso di sovraccorrenti sono le prime a partire e qua ne arrivano un bel, e quindi riesco a controllare la situazione con le prese sia protette, tutte le prese sono protette dalle sovrattensioni, prese, ciabatte, eccetera. Poi c'è l'alimentatore che a sua volta lo stesso protetto è messo a terra e poi arriva la radio che di norma è alimentata 12 volte. E quindi si spera con tutto questo ambaradan, che comunque è piccolo e incorporato, di evitare anche quello che succede quando si è collegato direttamente alla corrente. Cioè c'è qualcuno che vuole entrare, mi sembra Antonio che c'è avanti. Ehi, eccomi, ho dato due colpi importanti perché stavo a posto. Buonasera, buonasera a tutti. Ehi, ci ha dato ben sentito bene Gianfranco. Ciao Antonio, buonasera, oggi cosa c'è? Pasta asciutta? No, oggi minestra e fagioli. Ai. Stanotte allora ci sono sparatori in giro. Già fa una domanda. Capito Robert, così è la situazione. Ti fai qualche cosetta e ti stai tranquillo, là tanto poi cominci a salire, sempre qua si ritorna. Stavo dicendo, continuando il discorso di prima, radio amatoriale, tu mi hai ascoltato, mi hai sentito, come era la radio? La tua, timida. No, no, parlo rispetto a questa solita che utilizzo in un'altra banda di frequenza. La radio va bene, però adesso mi tocca a me fare il cattivo. Non puoi fare quel tipo di paragone, la radio come qua e come là. Ma siamo in FM, manda, diciamo, la canalizzazione a 25, quindi c'è una voce totalmente diversa, più fedele. Qua in AM, per avere la voce fedele devi fare parecchie manovre, quindi sono devi un po' scordare questo tipo di prove, capito? Non hanno una validità né tecnica e neanche di curiosità, perché sono due cose diverse. No, assolutamente, chiaramente d'accordo. No, parlavo come intensità di modulazione, perché ieri quando abbiamo fatto la prova, ieri o avanti, adesso mi ricordo, dice che ero basso, non riuscivano a sentirmi bene, avevo settato diversamente la radio, com'era il livello rispetto agli altri? Quello che voglio chiedere. Sì, scusa Antonio per il ping pong. Era normale, tieni presente che in FM l'amplificato non esiste, perlomeno come si intende qua in 27, non ci sono picchi, tutte quelle belle cose lì, scordatele, compreso il santo del Cile che ancora non è collegato, avanti a tu. No, ho capito, sto chiamando con la mia compagna, che cosa avete detto? Già te lo dice Roberto, ora avanti Roberto. No, stasera tu, sono stato battezzato, ho fatto, c'erano un po' di tutti, c'erano 4-5 radioamatori, tra cui Claudio Walter, come si chiama Tommaso? E ho chiesto come mi ha ascoltato lui a livello degli altri, parliamo come qualità microfonica, se ero troppo basso o che cosa, perché qua io sto adattando i 60 che normalmente utilizzo su un'altra radio e l'ho provato sul TS2000, volevo capire se rispetto agli altri ero un po' più basso, perché questa radio, il TS2000, può essere settato in tanti modi e regolato in tantissime cose, oltre che equalizzato. E quindi? Non ho capito cos'è tanto. E quindi? Com'è andata? Ti sentivano bene? E non so che era una cosa, ma Gianfranco, lui mi ha ascoltato, io non mi sono sentito. Andavi bene, nella norma. In cerco tecnico ti direbbero 5 su 5. Perché io ho qualche differenza tra di loro, l'ho notata. Qualche radio non era come piace a me, altre erano un po' più chiare, più nitide. Qualcuno era un pochettino impassata, non so se dipendeva dal microfono o dall'apparecchio. Guarda, in UHF, UHF sono i pochi quelli che utilizzano microfoni da tavolo. La maggior parte sono mezzi mobili e quindi le voci si sentono in maniera un po' diversa, a seconda delle distanze, a seconda di come parli, non stanno vicino al microfono, eccetera, eccetera. Quindi è un parametro che non si usa né in campo amatoriale né in campo professionale, si utilizza solo la chiarezza, ecco, la chiarezza nel senso di comprensibilità. Se una stazione è comprensibile, poi dalla voce, se nasina, se meno nasina, eccetera, è tutto relativo. Vabbè, ma se c'è una bella modulazione, io penso che qualcuno in HF c'ha una bella radio, bella corposa, piena, poi ci sono gli altri che è un pochettino nasina, un'altra troppo enfatizzata di frequenze, più carica di bassi, eccetera. Se uno riesce a uscire anche bene è un vantaggio, secondo me, almeno. Per come la vedo io, la radio deve avere anche una buona qualità di emissione, non deve avere una distorsione, una voce sporca. Dai. Sì, peccato che sarebbe una tua opinione quella, perché poi magari se di lì lo senti nasino e qua lo senti non nasino, probabilmente magari la sua voce di persona è nasina, è tutto da vedere questo. Comunque la comprensibilità assoluta è importante. Se ti metti poi a inseguire queste cose ancora prima di avere un'antenna, qualcuno ti potrebbe dire già perduto dall'inizio, perché saresti a fare ola, ola, ola, com'è, e poi ne c'è qualcuno come sempre ti dice: ma Asco, guarda che non sei, insomma, capito, mi hai, no? Sì, è vero. E Antonio sta girando la pasta fagioli. E poi mi ha detto passa in simplex, però sinceramente non l'ho mai provato. Su che funzione devo entrare qua per farlo? Gianfra, se riesci a dirlo al volo senza troppe complicazioni. Noi adesso siamo in simplex. Se mettiamo uno shift potremmo accedere a un ripetitore, tipo come potrebbe capitare in 10 metri. Quindi su 29 spiccioli ci sono dei ripetitori che d'estate si sento. Si può andare anche, perché ha la possibilità, in full duplex, in cross band, insomma in tanti termini. Il simplex è un canale singolo, semplice. Di lì come si mette, chi se lo ricorda, c'è anche il reverse, saper quello. Il reverse significa che quando ascolti sul ponte, commuti, tu trasmetti sulla stessa frequenza del ponte e ricevi il canale, diciamo, il corrispondente in diretta. Questo serve per verificare magari se c'è bisogno di rimanere sul ponte oppure se spostarsi. Insomma, ci sono tante cose, ma poi con l'esperienza, se non ti annoi prima, te la fai, ecco. No, perché loro poi sono andati, anche se poi non sono andati effettivamente, sono rimasti un paio solo, andavano nei 2 metri e poi lo trasladavano in 70 centimetri. Sì, erano in full duplex praticamente. Quel sistema lì lo utilizzavano quando ancora non c'erano i telefoni, per fare qualcuno, diciamo un po' così, utilizzava quel tipo di apparati per fare telefonate. Quindi c'era una tastiera di TMF, si collegava tranquillamente alla linea telefonica e si sentivano anche con quel sistema, praticamente facendo telefonate. Sì, no, perché mi ha detto di farlo, ho detto no, guarda, non lo conosco io l'apparato, devo cercare di studiarmelo bene per farlo col full duplex. Guarda, quell'apparato fa tante cose, c'è la funzione repeater, poi la funzione cross repeater. Cross repeater cosa significa? Significa che quando un corrispondente parla o in VHF o in UHF, la banda corrispondente va in trasmissione e quindi trasla la parte UHF in VHF, la parte VHF in UHF, cross band praticamente, e questo serve a fare una specie di ponte radio, dai, diciamola così, perché magari c'è la macchina che è in UHF, parla in UHF e può usufruire della tua stazione che è più in alto per parlare molto distante, ecco, e quindi mantenere una comunicazione. Scusate se mi sono distratto, cioè non distratto, ho dovuto dare la tachipirina alla mia moglie, perché non stava bene, capito? Sì, grazie Antu, me l'hai ricordato. Adesso infatti anch'io vado e me la prendo, perché ho ogni tanto dei problemi a una caviglia che mi dà molto fastidio e sto cercando di combatterli con la tachipirina. Può succedere, non si stia tanto bene. La tachipirina, diciamo che è la più comune, quella che più danno, dai, diciamo, più tranquilla. Io comunque non l'ho mai compreso nulla di questi radio amatoriali, la verità. No, rammara, vedete che abbasso un po' di potenza qua. Dunque già fra, appena mi arriva il giocattolino nuovo facciamo le prove. Sì, qual è l'antenna, il PC, cosa hanno di voi? No, prima il PC, l'antenna, poi prendi attacchi, già ricevono un attimo a metterla. Sì, infatti. Sì, vabbè, piano piano, tutto dai. L'unica cosa che non vado, l'ho cercato sul manuale, per vedere il ROS di questo affare, come sto andando, di questo nuovo Gianfra. Per fare il ROS c'hai, dove c'è il TX, mettere, una cosa del genere, c'è il tastino, lo premi e vedi se c'è il ROS. Ti commuta da potenza SVR come tanti apparecchi, però ripeto, dovrebbe essere a sinistra dove c'è anche Messer, quella cosa lì. Ah, cos'è questo TX monitor, quello lì? No, TX monitor serve per il coso lì, per sentire la voce quando parli al microfono, in modo da poter controllare se ci sono rumoracci o starnata, cosa del genere. Dove c'è scritto Meter, la funzione Meter, quella lì? Sì, quella dovrebbe essere. E questa CTS, CSS, che cosa serve? È un modo di trasmissione particolare? No, CTS, quelli sono i toni. No, perché i toni sono entrato dal tasto numero 4, c'è scritto tone. Perché sono suddivisi in toni, toni digitali e poi c'è anche un altro tipo di tono. Tone vuol dire continuous code, continuous code, tone, squelch, CTTS. Tradotto significa che quando tu trasmetti lui dà un tono che non può dire l'orecchio umano, ma la radio sì, e questo tono viene usato dall'apparato ricevente per aprire lo squelch, che in caso di trasmissioni senza tono rimane chiuso, una specie di chiamata selettiva però continua. Mentre il tasto DCS cosa significa? Digital Code Squelch. Sempre in ricezione in questo caso l'US. Il principio è lo stesso, solo che non c'è un codice, o meglio c'è un codice, però non c'è un codice continuo, è un codice all'inizio e qualche volta anche alla fine. Quindi tipo certe selettive che sentivi, no? E poi, scusa, Antonio, la cosa, la monotonia, diciamo, il monopolio. Poi c'è CH1, CH2, CH3, e ci sono tre voci nel rosso, evidenziate, doppia funzione, REC. Ma se c'è REC vuol dire registrazione, se no sono canali prioritari. Però, ripeto, sto andando a naso. Poi l'ultima cosa, c'è questo tasto, il numero 9, fine, fine in inglese. Probabilmente serve per regolare qualche spostamento di frequenza o cosa del genere, però ripeto ancora, sto andando a memoria e la mia memoria è anche piuttosto corta. Ok, vai a tu. Cappa, ho abbassato un po' di potenza, va bene? Su, cappa, non mi sono accorto. Ora, ho entrato, però, dato no, non mi necessita adesso, perché no, mi basta quella che ho. Cioè c'è qualcuno che vuole entrare avanti? No, ero io come ho mosso il microfono, che è andato un attimino in trasmissione, anche infatti ho messo i soliti 2 watt, perché proprio non mi piace andare di potente. No, a me mi bastano questi. Anche a me 2 watt, vedo tutto sassari, quindi che senso ha mettere 5 watt, 10 watt? Capo, no, molte volte ne uso poca. No. Tanto siamo qua, cosa mi metto a pompare? Guarda, qualche anno fa, quando c'era ancora Salvatore Maestrale, 10 anni fa, ci avevamo noi, con lo shift, usavamo anche lo shift, con 0,5 watt, mezzo watt, e lui era ottava, con la Mantova tubo, io con la mia, ci ascoltavamo in FM perfettamente, con mezzo watt. Ah, infatti, tu basta che abbia antenna e già fa. Cioè, vabbè, poi alla fine è sempre quella la legge, cioè se devi parlare tranquillo, normale, che non hai nessun problema, bastano, è come se bastano. Se invece ti fai sentire è diversa la storia. Sì, ma siamo andati a città, siamo tutti vicini, un arco di 5 km, forse neanche, mi conto siamo anche meno di 5 km, forse con Gianfranco, però solamente sono di fronte le antenne, io mi l'ho fatto vedere a Gianfranco quando è salito sul tetto, e se ci vede Monteoro perfettamente, proprio a vista d'occhio. Guarda, in altri tempi, quando facevamo tanti esperimenti con Vittorio, noi andavamo con 100 milliwatt in antenna, questi 100 milliwatt non disturbavano i nostri stessi ricevitori e quindi andavamo in full duplex tra che ne so, il canale 1 e il canale 39, capito? Con questa potenza ci arrivavamo con segnali di 9,10, 9,20 senza problema. E questo perché? Perché ogni tanto c'era gente che metteva la portante e quindi lui andava a mettere la portante a uno, però non sentiva che c'era anche una trasmissione che non passava perché l'altro sentiva ugualmente. Era tutto un sistema particolare per cui potevi anche trasmettere sia in doppia frequenza e sia senza rilasciare la portante, come stavamo facendo poco fa per l'appunto in VU e in U. Noi facevamo con lo shift, ti spostavi per tagliarmi un po' più in giù, magari per non essere nei canali 40 canali, andavi più in giù, per dire 26.500, arrivatevi in 26.5 e ricevivi in 26.600. Sì, anche guarda, questo per essere un apparecchietto CB, c'ha sia i toni e sia anche lo shift, preme il pulsante, c'è lo shift e lui ti sposta le frequenze, perché è un apparecchio fatto anche per le bande, diciamo, di su, ecco. E ci hanno messo questi qua, anche se poi alla fine è sotto il solito CB. Scusa un attimino, spiegami come si chiama ma si scrive SPLIT, così è. Split? Questo è split. Lo split non è altro che trasmettere su una banda o su un canale e ricevere su un altro canale. Tutto lì, quello si dice in split. Andiamo in split e ovviamente questo funziona tra due stazioni, perché la terza stazione non saprebbe se parlare con te o parlare con me, ad esempio, perché lo split sarebbe diverso. Tant'è vero che in split si usano i ripetitori, perché il ripetitore ci avrà un canale da cui ricevi tutti i colleghi, è un canale in cui trasmetti e il ripetitore si prende carico di ritrasmettere il segnale ricevuto a tutti gli altri, tutto lì. Aspetta un attimo, come shift, così è? Sì, shift vuol dire spostamento. Ce lo leggo via. No, volevo dire, non ho shift, sto sbagliato. Split. Split, il termine giusto è split. Ma qualcuno dice anche shift, però. Questo è di gusti, dai. Ah, ho capito. E ho già visto, da. C'è il tasto split, c'è scritto, anche io poco fa ho detto shift sbagliando, confessando ai punti ripetitori, invece è split per parlare su un canale e ricevere sull'altro, canale su una frequenza e ricevere sull'altra frequenza. Ma poi alla fine, cioè se tu ce l'hai e l'altro non ce l'hai, esci di capo, così. No, allora, ti chiarisco meglio il concetto. Il termine split significa che tu sei su una frequenza, però stai ascoltando su un'altra. Ok, e fin qua ci siamo. Il termine shift, invece, è la distanza che c'è tra il canale in cui trasmetti e il canale in cui ricevi. Ed è soprattutto utilizzato sui ponti radio. Esempio, i ponti radio in VHF hanno uno shift di 0.6 kHz per i radioamatori, quindi sono 600 kHz praticamente, non raggiungono il megahertz, mentre invece ad esempio il civile in UHF ha uno shift di 10 MHz da un canale all'altro. Tutto lì, questa è la differenza tra i due termini. Ho capito. Col tuo apparecchio metti split, te lo dico più semplicemente, metti lo split e ti puoi spostare di 100 kHz. Quando tu schiacci la portante, tu per dire stai ascoltando a 27.075, quando c'è lo split inserito lo puoi fare o più su di non so quanto arriva, di 50, di 100, adesso non me lo ricordo, ti puoi spostare più su di 50 o scendere più giù di 50. Tu come schiacci automaticamente si sposta la frequenza di ricezione, tu trasmetti 27.075 con lo split che l'hai impostato a 100 e lui sarebbe la ricezione a 100, 27.75, no scusa, anziché 0.75 gli aggiunge 100, 10, vabbè 100 sono trucchi, parliamo 10 kHz. Ho capito. Lo shift invece, come ha detto Gianfranco, per le VHF è di 600 kHz, 0,6 MHz, nelle UHF 1,6 MHz, 1600 kHz. E tu quando trasmetti, quando esciti il ponte, ti deve abbassare la frequenza di 1600 nelle UHF e di 600 nelle VHF. Ad esempio, adesso anche in gamma amatoriale UHF si utilizza i 5 MHz per cadere sulla banda sempre amatoriale, anche se satellitare, però amatoriale. Il civile, come detto prima, utilizza direttamente 10 MHz di shift, che le permette di avere così delle cavità del ponte radio molto più piccole, più efficienti e più filtrate, ecco, tutto lì. Ma poi già fa, chiedo conferma a te, i punti, per dire, i punti d'acustica non hanno lo stesso shift di tavolo leggero, sono diversi da quelli che abbiamo noi qua in Sardegna? Ma che io sappia c'hanno gli stessi shift degli altri, perché sono tanti apparecchi, sono già uniformati, forse altro per quello, a meno che qualcuno non si voglia fare i scifi a conto suo, lo può anche fare, però poi è un casino, capito, perché si ascolta solo un gruppo, magari l'altro qua è unificato, invece 600 in VHF e 1600 in UHF, tutto lì. Scusate, me l'ha ancora detto. Io mi sto dicendo Walter che dovrebbe arrivare fortissimo, io non so, non l'ho provato ad ascoltare, il ponte da Iaccio 145 637.50, tu come lo ricevi, Gianfra? Guarda, c'è uno che ricevo sempre il fondo scala, sicuramente è quello, adesso non lo so se è ancora attivo, perché se qua c'era tempesta, di là c'era chissà che cosa, ecco, oggi è stata una giornata veramente in tutta la zona, Corsica compresa, tremenda, però se funzionante, essendo in Corsica, a un'altezza ragguardevole tra l'altro, sicuramente si riesce a citare senza problemi, e tieni presente che quel ponte arriva anche in Liguria poi forse anche in Toscana, se non ricordo male, e quindi c'è un'ottima irradiazione che permette a noi, ai francesi, anche alla parte, credo, di Marsiglia, quelle parti lì, di accederci senza particolari problemi, ecco. Quindi utilizzando il doppio ponte, dai, riesce ad arrivare in corso in Liguria. Sì, è così. E piano piano, guardate, tante cose, basta chiedere e avrà delle risposte. Non ho capito, vabbè, se te lo dico un'altra volta forse è meglio, non vorrei... niente. Tra poco ti devo lasciare, che sta iniziando una cosa che mi voglio vedere, una curiosità che c'è, un film. Anche io, tra qualche secondo, anche io stacco. Vai Arto. Cazzo, vai. Dai, ci sentiamo. Alle prossime, Gianfra. Sì, Arto. So che non mi ricordo dove l'ho visto, io ero convinto che era. Su Iris non c'è. Non c'è, boh. Vabbè, aspettiamo. E così è. Comunque, com'è stata l'esperienza? Vabbè. Così così, dai, anche peggio pensavo. L'unica cosa, devo memorizzarmi bene. Bene, un attimo mio, cioè mi ricordavo, l'ho avuto scrivere perché non me lo ricordavo. Cioè, ci vuole l'esperienza piano piano, come per tutti. Ma diceva quello, nessuno è nato imparato, vero? Capo. Oh, yeah. Va bene, dai, io devo chiudere lo stesso. Perché... Dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte, dai, anche io adesso chiudo, dai, buon tutto. Ciao Gianfranco, grazie per questo, dai, domani se coincide ci aggiorniamo, vediamo un pochettino. Ciao, ciao a tutti e due, e eventuali ascoltoni su Canale 10, ciao. Ciao Antonio, buona fagiolata e buonanotte. Ciao Roberto, anche a me domani dovrà arrivare qualcosa, speriamo, così almeno farò qualche prova particolare. Alle prossime, buona serata anche a chi ascolta, che sicuramente ce n'è più di uno. Ciao ciao. Andiamo, capo.